I riflettori sono puntati sullo Spallanzani di Roma da una parte, su quel tratto di ferrovia nei pressi di Lodi dall'altra. Non in attesa arriva la notizia del primo italiano positivo al coronavirus, mentre in Cina si contano 600 vittime, 30.000 contagiati. Intanto si indaga e ci si interroga sul deragliamento del Frecciarossa, costato la vita a due macchinisti. Il fronte politico ci racconta dell'ennesimo vertice sulla prescrizione che si conclude di nuovo con un nulla di fatto. Conte prova a mediare, i renziani non ci stanno, dunque si rinvia, così come si rinvia anche su Ilva e, diciamo così, si lavora sugli altri dossier. Spicci di Sanremo, ieri la serata dei duetti, ieri l'altro, ascolti sopra il 53%. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Care ascoltatori, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, venerdì 7 febbraio alle 6:31 minuti e 10 secondi. Si arrotola la lingua dopo una settimana, evidentemente. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. La vostra voce, fatemela sentire, per quanto assonnata sia. Siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, su Instagram, come sempre. In regia c'è Peter Bescapè, c'è Giorgio De Luca, in assistenza e in redazione. E la consueta invocazione dell'ascoltatore: basta con Sanremo, ti prego. Un pochino, giusto un pochino, sai... Lo sa, qua parliamo di tutto, parliamo di tanti argomenti importanti, seri, la politica, le cose un po' più concrete, eccetera. E poi un tocco di Sanremo, ragazzi, mamma mia. Oh, del resto, se più della metà dei televisori italiani ieri erano collegati sul festival, qualcosa ci dirà del paese. Magari non vi piace quello che ci dice del paese, però è così, posto che a me piace. E un altro dice: basta con la prescrizione, amico mio, però... Questa storia della prescrizione è una storia che potrebbe mettere a rischio il governo. Oltre ad essere una questione importante perché ha a che fare con uno scontro su quello che una parte considera un principio di civiltà giuridica e una parte considera un principio di inciviltà giuridica. Ben rappresentati dal Movimento Italia Viva da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra. La cosa importante ha a che fare con i diritti, con la vita di chi va a processo, con le vittime, con quello che succede al processo penale. Non sono bruscolini, insomma, Sanremo la critica l'accetto, sulla prescrizione, ragazzi, è un po' diverso. Se invece con il basta con la prescrizione intendiamo basta con questo balletto, con questi rinvii, beh, un pochino siamo d'accordo, perché insomma la tiriamo un po' troppo lunga e da un po' troppo tempo. Si ipotizza a questo punto addirittura un decreto per un lodo Conte bis, dice il ministro Bonafede al termine del vertice di ieri. Siamo d'accordo sull'approvare una norma, vedremo meglio con quale strumento, che potrebbe essere anche un decreto legge, per concretizzare, diciamo, quello che tutti hanno soprannominato il cosiddetto lodo Conte bis, su cui c'era stata una proposta iniziale, come sapete, del Presidente del Consiglio già circa un mese fa. Certo, poi diventa tutto criptico, no? Nel linguaggio della politica. Il lodo Conte bis, che vorrà dire? Lo stop alla prescrizione solamente dopo il processo d'appello, dopo che c'è stata la prima condanna. Anche su quello Italia Viva ha detto no, e quindi balla un po' il governo. Si parla della possibilità di un appoggio esterno, altro terminone della politica, che vuol dire che Italia Viva potrebbe uscire dal governo, cioè rinunciare di fatto alle poltrone, sottosegretari, ministeri, ministri, viceministri, e appoggiare il governo da fuori, tenendosi le mani libere. Francesco Specchia, ciao Francesco, editorialista di Libero, firma di Libero, direttore di Pop Economy. Ciao, eccoci qua. Sai, ti sento in maniera atroce. Prova a parlarmi di prescrizione, vai, vediamo un attimo se... La prescrizione è ancora più atroce, se vogliamo. Sì, la battaglia. La battaglia lunga, direi che è più lunga dell'ultima serata del Festival di Sanremo, se vogliamo metterla. È una cosa eterna, è prussiana, dilatazione prussiana del tempo, una cosa terrificante. La prescrizione, siamo là, cioè io la vedo dura che Renzi... dopo aver proclamato il 420 comunque di giustamente secondo me di evitare la barbarie, cioè Renzi vuole che la prescrizione ovviamente venga tolta così come fatta e si ricominci da capo, ecco, la vedo dura che molli il governo per questo, per il semplice fatto che ci sono le nomine famose, no? Statali, parastatali, eccetera, gli enti, eccetera, eccetera, 400 nomine a cui al banchetto del quale vuol partecipare anche Italia Viva, prendiamoci chiaro, mettere uno dei suoi legittimamente, essendo nel governo. In secondo luogo è difficile che si vada a nuove elezioni, soprattutto per Renzi, perché se si andasse con questa legge elettorale non avrebbe il successo tanto decantato all'inizio, cioè lui pensava di avere un 10%, ma in realtà siamo sul 3-6. Ma se si andasse con una legge elettorale diversa, put a caso, che è il famoso Germanicum, con lo sbarramento al 5%, da una proiezione fatta l'altro giorno, proprio se non sbaglio, da Corriere della Sera, su 400 deputati Renzi ci sarebbero 205 deputati, sì, Lega, sì. Lega e Fratelli d'Italia, insieme, sì. Ma soprattutto Renzi avrebbe 3 scranni, non di più, ma in virtù poi di un meccanismo particolare che premia 3 regioni, 2 regioni e 3 circoscrizioni, ma insomma avrebbe una presenza esiziale all'interno del governo assolutamente irrilevante, poi se si parla proprio del contesto politico in generale. Quindi dubito fortemente. Io credo che la prescrizione sia una battaglia di civiltà, perché se uno non fa come non sta facendo i 5 Stelle, non fa una riforma generale della giustizia, è sempre la solita cosa. Sì, il concetto è: ci puoi mettere mano, va bene, puoi anche decidere, perché in altri paesi la prescrizione non esiste, però devi fare in modo che il processo abbia una durata decente. Ma lo prevede la Costituzione, articolo 111, c'è cioè la giusta durata del processo. Il problema è che Bonafede non ha ancora messo mano alle promesse di riforma della giusta durata del processo, e questa è la cosa peggiore. Quindi secondo me, ecco, per come siamo fatti noi, se entra la prescrizione adesso, ha ragione il primo presidente della Cassazione, avremo un carico penale del 50% in più, 25.000 processi terribili ogni anno in più, e non servirà più a capo. Sì, il sistema non è in grado di reggerli. Collasserebbe. A proposito delle questioni politiche, al termine del vertice, Cucca di Italia Viva dice: non siamo noi che ricattiamo, è Bonafede che si arrocca. È delicato proprio, non parlerei, perché la nostra posizione è sempre la stessa. È Bonafede che è arroccato sulle sue posizioni, il PD di fatto si è dimenticato che aveva proposto e votato la riforma Orlando, noi rimaniamo sulle nostre posizioni, ci dovremmo incontrare sulla vicenda della votazione dell'Odo Annibali e poi eventualmente anche della proposta Costa, vedremo. Altre notizie di giornata, la questione del coronavirus, del primo contagiato italiano, tra l'altro poveraccio, era arrivato da un giorno, era andato a trovare la fidanzata a Wuhan, aveva preso il treno, era andato là, e l'ha preso il virus. Ieri la verifica con il tampone, hanno verificato effettivamente che aveva contratto il virus. Una notizia, mi permetto di dire, tutto sommato non inattesa, insomma era prevedibile che fosse così, ed è, se consentite anche aperte virgolette, tranquillizzante chiuse virgolette, che fosse uno di quelli che veniva da Wuhan e non da altre zone della Cina, tutto sommato, insomma. Quindi una delle persone più sotto controllo là all'interno della struttura militare della Cecchignola. E poi lo sguardo si volge a quello che è successo ieri nei pressi di Lodi. il deragliamento del Frecciarossa, ne abbiamo parlato ieri ampiamente, come sapete, anche qua in 24 mattino. Adesso ovviamente si guarda alle cause, si guarda anche ai racconti che si sentono, quelli del di chi era su questo treno deragliato. Poi tra un attimo ci arriveremo, ne parleremo con un sindacalista della CISL, amico di uno dei due macchinisti che ha perso la vita. Sentiamo il superstite, una delle persone che era su questo treno, che telefona al 112, un passaggio quantomeno di questa telefonata. Carabinieri, abbiamo deragliato col treno, partito alle 5.10 da Milano. Non so dove siamo, abbiamo appena lasciato da poco Rogoreto. Allora, un attimo. Il treno è deragliato, non so qui. Stiamo uscendo dal treno, però siamo feriti. Correte, venite subito. Che convoglio è? Che convoglio è? È un Frecciarossa 1000. Perciò siete sulla linea delle Frecce Rosse? Sì, siamo a PM Livraga. Livraga. Venite subito, è proprio di girare, grossissimo. Adesso provvediamo. Grazie. Insomma, chiaramente, no? Si percepisce qua la paura. Detto ciò, caro Francesco, oggi un po' di pagine di giornali sottolineano che in realtà la rete italiana è una di quelle, è ampiamente al di sotto della media europea come tasso di incidenti, ossia c'è un livello di sicurezza medio della rete italiana che è alto, no? Anche in termini di sistemi di sicurezza. Sì, no. Poi ieri c'era uno studio di Pendolaria, cioè l'associazione che racchiude tutti i pendolari, che diceva appunto che soprattutto in tema di sicurezza, per quanto riguarda proprio il Frecciarossa e tutti i treni di alta velocità, insomma, l'Italia è ai primi posti e l'oriato, cioè la differenza tra i pendolari che usano i regionali e quelli che usano i Frecciarossa si fa sempre più assottigliando, nel senso che i treni più sicuri sono sempre quelli più frequentati. Quindi ieri c'è stato veramente un incidente fatale, devastante, tutto quello che vogliamo. Ci sono stati questo impatto della vettura di testa contro i due macchinari per la manutenzione, quello che ha provocato veramente il danno e la morte delle persone. Però probabilmente è stato veramente un errore a livello di binari, insomma. Può succedere, ecco. Io non darei la colpa a nessuno, per una volta non darei la colpa a nessuno. Sì. Il procuratore dice, insomma, forse c'è stato un errore nel posizionamento dello scambio, vedremo, poi c'è un tema, se vogliamo, un po' più largo, che ha a che fare non solo con la sicurezza delle infrastrutture, ma anche sull'intasamento, per così dire, chiamiamolo così, della rete dell'alta velocità. Questo è un grande tema e bisogna vedere se questo ha influito sul fatto che, no, magari la manutenzione si faccia un po' troppo in fretta, però sarà tutto da vedere anche questo, Francesco. Certo. Sì. Senti, allora io con scarsa sopportazione di alcuni dei nostri ascoltatori un accenno di Sanremo lo facciamo. Tu l'hai visto ieri? Per forza. Io non ci sono riuscito ieri, sono sincero, a me piace, lo guardo, qua a fare dice, quello che guardo, no, io Sanremo non lo guardo, lo guardo con anche mi ci diverto, anche ieri proprio non ce l'ho fatta, avevo un altro impegno purtroppo, sentiamo, che facciamo? Ci sentiamo un Benigni, una vocina di Benigni, va sulla storia del citofono di Salvini, va, sentiamolo. C'era allora tutto un sistema di voto diverso, ora c'è un sistema di voto, tu mi hai anche detto di ricordarlo, ora come sapevi, allora si vota con la giuria del festival, poi si può votare via social, con internet, si può votare anche col telefono, via telefono, e c'è una novità quest'anno anche via citofono, si può citofonare, no, all'indirizzo, voi venite a Sanremo, piazza Matteotti 140, citofonate e dite, ci hanno detto che qui c'è gente che canta, e potete votare, poi chi vince, insomma. Poi. Dai Francesco, non è male, No, non è assolutamente male. Tra l'altro poi la seconda parte è stata, siamo scivolati nel drammaturgico in maniera straordinaria, perché Benigni ha fatto una prolusione quasi biblica e teologica sul Cantico dei Cantici, che è la canzone delle canzoni che lui avrebbe dovuto cantare al festival, che poi ha cantato, ma che poi ha cantato, ha recitato, quindi citando il testo della Bibbia, il testo originario, e rendendolo una materia talmente popolare, nazional popolare, che tu vedevi anche gli orchestrali che rimanevano a bocca aperta nel sentirlo, che è la stessa operazione che ha fatto con la Divina Commedia, no? Quindi è sì. un'operazione proprio di puro servizio pubblico quella che c'è stata ieri. Può piacere o non piacere, ma comunque l'indirizzo di Benigni è ormai sempre quello lì, cioè sì. di fornire al pubblico una divulgazione non solo dei sacri testi, ma divulgazione della Costituzione, di tutto quello che ci riguarda tutti i giorni, insomma, sacro e profano. Allora, il diario della nostra Marta Cagnola da Sanremo, che insomma, ci manda tutti i giorni, e poi il traffico. Non so se lo sapete, ma l'Auditel conta le ore del giorno in maniera molto particolare. La giornata non finisce a mezzanotte, cioè alle 24, ma prosegue con le 25, cioè l'una, fino alle 25.59, un minuto prima delle 2, quando inizia tecnicamente il nuovo giorno televisivo. La terza serata di Sanremo è iniziata giovedì, ma dunque è finita venerdì, anche per le rilevazioni Auditel, perché si è conclusa alle 2.03 minuti. Consulterei gli annali per capire a che punto del Guinness dei primati potremmo essere, ma per noi che stiamo chiudendo la giornata lavorativa sono tra pochi minuti le 4 del mattino. Insomma, anche se si velocizza al massimo la serata, si lascia a casa Fiorello, si relega Tiziano Ferro dopo la mezzanotte, 24 canzoni restano 24 canzoni. Aggiungiamo poi 32 minuti di Benigni e il gioco è fatto. Meno male che c'era la co-conduttrice, l'albanese Alcheta, che parla tanto veloce da farci desiderare di spedire il canone a Tirana. Tanto rumore per nulla invece per Giorgina Rodriguez. La sua pare costosissima presenza serviva solo a inquadrare Cristiano Ronaldo sorridente in prima fila. E dunque torniamo alle 5.35 di ieri mattina, alle 5.35, quando un treno Frecciarossa a pochi chilometri da Lodi, appena partito dalla stazione di Rogoredo, un Milano-Salerno appunto, un'alta velocità, è deragliato. Le cause sono ancora da accertare, per quanto il PM di Lodi parli già abbastanza apertamente della possibilità di un errore in una fase di manutenzione avvenuta intorno alle 4.30, uno scambio rimasto aperto. Una trentina di feriti leggeri tra i passeggeri, ma soprattutto i due macchinisti, Mario Di Cuonzo e Giuseppe Cicciù, che hanno perso la vita. Noi siamo in linea con Giovanni Abimelech, segretario generale della FIT CISL Lombardia, il sindacato dei trasporti della CISL, la sezione lombarda, che Abimelech, che tra l'altro conosceva Cicciù. Buongiorno Abimelech, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sento una cosa, che cosa ci racconta? Ci racconta qualcosa di più questo incidente? Perché noi abbiamo detto che in linea di massima i dati che noi possediamo ci dicono che la rete italiana è una rete tutto sommato sicura, in media con i migliori paesi europei, penso a Germania e Francia, in termini di incidentalità. Ci dice qualcosa di più questo incidente o no? Questo incidente però ci ha tolto un po' di certezze, un po' quello che stava dicendo lei in questo momento ce le toglie, perché noi eravamo convinti per le nostre infrastrutture di partire dall'alta velocità, di partire dalla infrastruttura che un po' era un po' il modello dell'efficienza, dell'efficacia, insomma, del nostro paese, anche se andavano sviluppate, vanno sviluppate. Questo sì, però ieri mattina ci siamo svegliati perdendo questa certezza che insomma i treni fossero qui, specialmente l'alta velocità, e questo insomma ci ha reso un po' tutti più deboli. A suo giudizio dove risiede il problema? Ma guardi, considerare poi, visto che è successo un incidente, perché se no non eravamo qua a parlare, vuol dire che c'è un problema. Questo problema che il lavoro è stato fatto, perché si parla di mancanza, ho sentito tante cose, mancanza di manutenzione, penso di no, perché noi seguiamo un po' i nostri lavoratori che fanno manutenzione sulle reti, un po' manutenzione dappertutto, e sappiamo che la manutenzione viene fatta. Il punto è che come è possibile che un deviatoio rimane aperto e il treno ci passa su, così, senza che una rete ad alta tecnologia. Sì, ecco, mi scusi Abimelech, è esattamente questo il punto, ossia in realtà la rete ad alta velocità è ultramonitorata a distanza, da remoto, per cui cose di questo genere dovrebbero risultare alla centrale in tempo reale. E questo è il risultato, è che tra quello che abbiamo sentito tra i lavoratori, un po' dai media, anche quello che diceva lei prima, che senz'altro è così, però abbiamo capito che non basta più la procedura di manutenzione che c'era fino all'altro giorno. Vuol dire che dopo le manutenzioni che vengono fatte sulla rete ci vuole un'altra procedura che fino ad oggi non è stata fatta, perché se no rischiamo di fare lo stesso errore, perché l'errore umano ci può essere sempre, ma l'errore umano va messo in preventivo. E bisogna trovare il modo, dice lei, di evitare che questo errore umano porti a conseguenze. Nella storia ne abbiamo avuti tanti, però poi abbiamo superato con la tecnologia, oppure facendo che quello stesso lavoro, quella stessa azione così delicata, a volte venga fatta da due persone, anziché, insomma, un gruppo di lavoro che certifica una lavorazione, perché là non era un lavoratore solo, ma un gruppo di lavoro che certifica una lavorazione, che finisce la lavorazione, è evidente che ha bisogno, perché sono tutti convinti di aver fatto un lavoro fatto bene, è evidente, a questo punto vuol dire che quella procedura andava bene fino all'altro giorno, fino ad oggi non va più bene, perché ci vuole un'altra persona che con occhio critico guardi il lavoro che hanno fatto. Controlli e verifichi. Certo, perché poi ci sono delle vite, non ci siamo solo... Certo. Il caso di ieri, Abimelech, io vorrei che questo poi lo tenessero presente gli ascoltatori, perché insomma noi guardiamo molto ovviamente a noi stessi, a noi che tutte magari, ma a volte tutte le settimane, alcuni tutti i giorni prendono questi treni ad alta velocità, e però mi faccia un attimo puntare il riflettore sul fatto che il caso di ieri è anche il caso di due morti sul lavoro, che sono appunto due macchinisti, di cui uno appunto Giuseppe Cicciù era svolse attività sindacale proprio con voi, era un vostro delegato, che ricordo ha? Io ho un ricordo di lui, perché lui il mandato, non questo mandato qua, era il nostro delegato, ma i mandati precedenti l'ha fatto, però uno resta poi sempre nel mondo sindacale, un dirigente sindacale. Lui ha fatto anche formazione con noi, insomma, e la sua sensibilità è venuta fuori un po' anche sui media, era sulla prevenzione della sicurezza. Pochi giorni fa sul suo Facebook c'era scritto una frase proprio che parlava di investire sulla prevenzione della sicurezza, ancora. E la sua formazione era questa, una formazione, lui era un macchinista ancora delle vecchie, mi faccio dire, locomotori, sì. E ha cambiato per la tecnologia, ha cambiato per l'innovazione. Ed è andato a fare il macchinista dell'alta velocità. Una persona squisita, solare, che faceva il sindacalista nel tempo suo, il tempo dopo il lavoro, pertanto donava del proprio tempo all'attività sindacale, cosa che non fanno tutti. Grazie. Grazie Giovanni Abimelech, segretario generale Fit CISL Lombardia. Sta per finire il nostro tempo, ma prima che finisca una spolverata di Stati Uniti. Innanzitutto dall'Iowa, dove finalmente dopo non so quanto, 72 ore hanno finito di contare e forse si andrà a riconteggio, non si è capito bene, e però alla fine ha vinto di un'incollatura di uno 0,1% Buttigieg, ok? Ha prevalso su Bernie Sanders. I caucus nell'Iowa, l'avvio delle primarie per la scelta del candidato alle presidenziali americane per i democratici. E intanto Donald Trump commenta lo strappo, quello abbiamo, ne abbiamo parlato all'infinito, della Pelosi che strappa il discorso di Donald Trump al termine del discorso sullo Stato dell'Unione. Trump, Trump, poi andiamo a chiudere. They're vicious and mean, vicious. These people are vicious. Nancy Pelosi is a horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person. Francesco Specchia, grazie, firma di Libero, grazie, direttore di Pop Economy. Ciao Francesco, buona giornata. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.